Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda, chiaramente le vicende di carattere politico e politico-economico. Ascolteremo alcuni passaggi dell'intervista che questa mattina ha reso il Presidente Confindustria Giorgio Squinzi a Radio 24 nel programma Mix 24 di Giovanni Minoli, anche e soprattutto per quello che riguarda le richieste, ma più che richieste, quelle che sono le attese del mondo produttivo e quindi anche degli industriali nei confronti del governo. E poi, va detto, qui siamo a cavallo più tra economia e politica, anche insomma il monito di Squinzi: attenzione, non avere risposte il 19 sarebbe un grosso problema, non ci resterebbe il prossimo 19 febbraio, non ci resterebbe che, diciamo, un appello al capo dello Stato. Questo per quello che riguarda, c'è chi scrive pressing, ma non è, sì, sarà anche pressing, però soprattutto il fatto che non vi è nulla nella manovra per le imprese e per i lavoratori, quindi per cercare di rilanciare la domanda interna. Oggi Letta ha annunciato che il governo ha stanziato 250 milioni di euro di incentivi per l'assunzione di laureati e ricercatori per il 2014, meglio che niente, però attenzione che 250 milioni di euro sono veramente una goccia nel mare. Qui il tema resta, e qui è di carattere a mio avviso politico: o c'è un'iniziativa forte, chiamiamola anche dirompente, che faccia cambiare passo, o se no qui si va avanti con la politica dei piccoli passi, ma i piccoli passi non stanno risolvendo molto, per non dire nulla. Ancora, per quello che riguarda invece le notizie di oggi, la Banca Centrale Europea che lascia i tassi invariati, nonostante vi fosse chi si attendesse una riduzione dei tassi di interesse, però tasso di riferimento allo 0,25%, così come ha fatto anche la Banca d'Inghilterra, che lo ha lasciato allo 0,50%. Nessuna variazione per quello che riguarda la Banca d'Inghilterra sul piano di riacquisto dei bond, dei bot britannici, confermato a 375 miliardi di sterline. Per quello che riguarda invece la Banca Centrale Europea, Mario Draghi ha detto la bassa inflazione sarà prolungata ma risalirà, e ha promesso tassi a livelli attuali o inferiori ancora a lungo. Faremo interventi decisivi se necessari, ha continuato Draghi. E ancora, per quello che riguarda lo scenario economico, ha detto non c'è nessuna deflazione nell'area euro. Allora ascoltiamo questo passaggio, poi ne parleremo nella seconda ora del programma, però questo passaggio di Mario Draghi proprio sulla bassa inflazione, che nel lungo termine comunque resta un rischio secondo la Banca Centrale Europea, per quanto non vi sia in questo momento alcuna deflazione, e la conferma che la Banca Centrale Europea è pronta ad agire. Based on our regular economic and monetary analysis, sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. Le informazioni disponibili confermano che la ripresa moderata dell'area euro sta procedendo come ci aspettavamo. Le attese riguardo l'inflazione nell'area euro nel medio-lungo termine continuano ad essere ancorate e in linea con l'obiettivo di un'inflazione al di sotto ma vicina al 2%. Come affermato in altre occasioni, stiamo assistendo a un prolungato periodo di bassa inflazione che sarà seguito da un rialzo graduale verso un tasso al di sotto ma vicino al 2%. I dati più recenti confortano la nostra decisione di mantenere una linea accomodante per tutto il tempo che sarà necessario. A nome del direttorio voglio riaffermare con forza la nostra indicazione di tenere i tassi di interesse ai livelli attuali o più bassi a lungo. Per ciò che riguarda la recente volatilità dei mercati e il potenziale impatto sulle linee della nostra politica, monitoriamo da vicino gli sviluppi e siamo pronti a considerare tutti gli strumenti a disposizione e ad adottare altre azioni decisive se sarà necessario. Intanto come vanno le borse che si avviano a chiudere? Bene, bene Milano soprattutto, più 2,1%, Parigi più 1,80%, Francoforte più 1,60%, Londra più 1,50%, l'America più 0,90%, euro su dollaro a 1,36%, tra i titoli oggi in rafforzamento tutte le banche, devo dire a partire dal Monte dei Paschi più 4,60%, le borse in realtà avevano reagito in maniera molto fredda alle parole di Draghi, poi l'apertura di Wall Street ha cambiato anche l'orientamento. Dicevo Monte dei Paschi più 4,5, Popolare Emilia Romagna più 4,12, Unipolsai più 3,90, Ubibanca più 3,80 come Mediobanca, Mediolanum più 3,20 come il Banco Popolare. Bene, Enel più 4,31%, e qui ne parliamo perché ci sono anche i conti, e poi per quello che riguarda il titolo Telecom Italia nel giorno del CD del Consiglio di Amministrazione più 2,70%, cito anche tra chi va bene, Autogrill più 3,25%, Mediaset più 3,80%, Ansaldo più 3%, e Ferragamo più 2,5 come Intesa San Paolo e Prismian, ma anche le generali. Di negativo Pirelli meno 1,26%, era molto salita nei giorni scorsi, Saipem meno 0,30 come G-Tech. Allora, notizie di carattere internazionale per quello che riguarda il a livello chiaramente europeo, ne parleremo più avanti della Banca Centrale Europea. Per quello che riguarda l'America invece, un nuovo dato migliore delle stime sui sussidi alla disoccupazione, sono calati di 20.000 unità, 331.000. Il deficit commerciale invece degli Stati Uniti è aumentato a 38,7 miliardi di dollari a dicembre, peggiore delle stime degli analisti. La dimostrazione che nella vita non basta avere un dollaro debole, una valuta debole per riuscire a esportare, occorre avere anche dei prodotti e delle imprese competitive. Qualcuno la vuole capire anche nei confronti dell'euro. Ancora. Non posso rispondere a tutti gli sms che arrivano. Comunque andiamo avanti. Chi sta calando molto in borsa invece è Twitter, meno 23%. Un vero e proprio tonfo in borsa dopo i conti deludenti. Chiaramente stiamo parlando della borsa americana. Hanno pesato i conti del quarto trimestre che hanno deluso le aspettative del mercato, e già ieri avevano provocato un ribasso dei titoli del gruppo fino al 14%. Sempre sul listino americano. Ancora per quello che riguarda uno studio, non sarebbe vero che i ricchi in Gran Bretagna, 1% della popolazione, paga una quota molto ridotta di tasse, come sostiene il movimento Occupy? C'è l'istituto The Institute for Fiscal Studies di Londra che ha elaborato i dati a disposizione del fisco di Sua Maestà nel corso degli anni. Emerge che i paperoni, quelli che guadagnano oltre 150.000 sterline l'anno, contribuivano nel periodo 79-80 per l'11% alle imposte, mentre oggi pagano il 30% delle imposte. Uno studio che è destinato a riaccendere la polemica nel Regno Unito, che fra chi vede i ricchi, anche quelli stranieri che usano Londra per coordinare i loro affari e fare proficui investimenti, e c'è chi invece li giudica come potenziali evasori in cerca di paradisi fiscali, o invece chi dice sono una risorsa per la Gran Bretagna. Ricorderete che il sindaco di Londra, forse Boris Johnson, aveva detto, scatenando un putiferio, che i miliardari sono dei veri e propri eroi. E poi c'è uno scontro, invece veniamo all'Europa, c'è uno scontro tra Ecofin, o meglio il Parlamento di Strasburgo che attacca il Consiglio europeo. Praticamente il Consiglio, ma soprattutto la Germania, sono finiti sotto accusa nel dibattito speciale della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo sull'unione bancaria. Perché questo? Perché il negoziato sullo strumento di risoluzione è in stallo, nessun passo in avanti anche ieri. Il vicepresidente della Commissione responsabile del dossier Unione Bancaria, Barnier, ha sostenuto la posizione del Parlamento definendo urgente avere una soluzione credibile per il fallimento ordinato delle banche. Il Parlamento europeo ha lanciato anche quello che i principali gruppi politici hanno definito come un campanello d'allarme per l'Ecofin. La plenaria infatti ha ribadito con quasi il 75% dei voti la posizione dell'Eurocamera sul meccanismo di risoluzione bancaria, che in alcuni punti è diametralmente opposto a quello dell'Ecofin, e quindi si è allo stallo, tant'è che il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha chiesto un Ecofin straordinario proprio sul tema dell'unione bancaria. Veniamo all'Italia. L'Italia ha visto lo spread scendere a 206 punti, il rendimento del nostro BTP a 10 anni è al 3,75%, ancora per quello che riguarda i consumi italiani, la Confcommercio a dicembre si è arrestato il crollo dei consumi, anche se si è solo arrestato, non bisogna pensare a una crescita. 0,1% rispetto a novembre. Da inizio della crisi comunque il passivo è dell'11% sul calo dei consumi. Questo lo dico perché così non evitiamo facili illusioni. Tant'è che la stessa Confcommercio dice: non è chiaro se siamo di fronte a una svolta o si è solo arrestato un calo e siamo di fronte a un breve recupero. Buona notizia per l'Abruzzo invece, perché il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha sbloccato 545 milioni per garantire la prosecuzione della ricostruzione dell'edilizia privata post-sisma in Abruzzo. Ancora, per quello che riguarda invece il rapporto ANCE-CRESME sul rischio idrogeologico del nostro territorio, sono 6.400 le scuole ad alto rischio, anche 550 ospedali e 460.000 uffici e negozi. Dice l'ANCE, l'associazione dei costruttori, occorrono subito interventi per la manutenzione del territorio, i soldi ci sono, vanno spesi subito, altrimenti il paese crolla. Devo dire che su questo è intervenuto il direttore generale dell'ANCE a effetto giorno con il nostro Simone Spezia, Antonio Gennari, il quale ha ribadito la necessità di un intervento coordinato da parte di tutte le istituzioni, quindi a diversi livelli, quindi Stato, Regioni e Province, per il dissesto del nostro territorio. Sono presso stanziati con autorizzazione di cassa 1,6 miliardi di risorse che devono essere spese e non riescono a essere spese. Oggi il presidente Buzzetti ha fatto un appello per dire: troviamo le soluzioni in tempi brevi, molto concrete. La presidenza del Consiglio, i ministri, oggi qui c'è il ministro Orlando, cerchiamo di trovare regioni, comuni, enti locali per trovare una strada per utilizzare queste risorse. Uno dei problemi naturalmente è il patto di stabilità interna che limita l'utilizzo degli investimenti, ma quello che serve è la volontà di mettere insieme, diciamo, le energie, superare la frammentazione delle competenze, anche il rimbalzo di competenze tra Stato e Regione. Ci deve essere una forte regia statale, l'utilizzo di queste risorse con progetti che servono a risanare il territorio. Ancora una notizia dall'Italia che riguarda Alitalia, perché c'è una dichiarazione molto interessante a mio avviso dell'amministratore delegato del gruppo Air France KLM, quindi gruppo franco-olandese, Alexandre Junac, che in un'intervista al Financial Times dice: per certi aspetti un possibile investimento di Etihad, quindi la compagnia di Abu Dhabi, in Alitalia rafforzerebbe la possibilità che Air France KLM investa ancora nella compagnia italiana, e quindi l'ipotesi della trattativa è da considerarsi positivamente. Le condizioni poste da tempo però vanno soddisfatte rigidamente, e fa notare il numero uno di Air France KLM che le condizioni che ha posto Etihad sono simili a quelle poste da Air France e KLM. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Prima di arrivare alle riforme, alle richieste anche degli industriali, qualche notizia sui soldi nostri, come sempre facciamo, e l'utilizzo da parte degli enti locali. Devo dire che oggi, per fortuna, ogni tanto capita, c'è anche qualche buona notizia. La buona notizia arriva dal comune di Bologna, che nel 2013 è riuscito a spendere solo 6.000 euro per le consulenze. Praticamente è l'1% di quanto sborsava nel 2009. Ha risparmiato 137.000 euro dei fondi preventivati lo scorso anno. E tra l'altro riduzione anche per le consulenze effettuate con i soldi che arrivano da altri enti o da fondi europei. Pensate che nel 2009 il comune di Bologna aveva impiegato 1.300.000 euro per questo tipo di consulenze, adesso ne ha spesi l'anno scorso 98.000, a dimostrazione che il risparmio è possibile senza, diciamo, distruggere quella che è l'attività del comune. È avvenuto anche questo risparmio alla luce di un drastico calo del personale e delle relative spese, che sono passate da 200 a 170 milioni di euro l'anno, quindi 30 milioni di euro in meno. Anche qui evidentemente parte di queste consulenze, mettiamola così, non erano fondamentali, strategiche. Invece va peggio per i cittadini romani, perché la manovra finanziaria del 2014 del Comune di Roma rischia di trasformarsi in una vera e propria mannaia da 80 milioni di euro per i dipendenti comunali e i cittadini. L'idea di vendere le partecipate e le municipalizzate mai, con tutto quello che abbiamo raccontato sugli scandali della CEA, dell'ATAC, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, della gestione dell'acqua, no, quello no. Scandali in alcuni casi su cui è intervenuta anche la magistratura. Però la bozza di legge presentata in giunta prevede il taglio degli straordinari e delle indennità ai dipendenti comunali. Ora, io l'ho detto più volte, il problema non è tanto lo stipendio dei dipendenti comunali, sì, in alcuni casi ce ne sono troppi, dipendenti pubblici, in alcuni casi ce ne sono troppi, vedi i forestali in Calabria, in Sicilia, per fare un esempio, ma il problema è anche il costo dei dirigenti, il costo delle consulenze, il costo degli organi di rappresentanza politica, perché prendersela con lo stipendio medio di un dipendente comunale romano, che è in media di 1.800 euro netti, e senza gli straordinari e l'indennità scenderà a 1.450 euro, mi sembra veramente più che una guerra tra poveri, la guerra ai poveri. Non solo, perché la decurtazione di 80 milioni di euro mette a rischio anche i servizi offerti dal comune. Biblioteche, asili nido e uffici comunali rischiano di essere aperti per meno ore, e il numero dei vigili urbani in servizio di notte nel weekend potrebbe essere ridotto all'osso. Sono a rischio anche i fondi per ripristinare il manto stradale. Abbiamo visto in questi giorni cosa è successo a Roma con la pioggia, è ridotto una vera e propria gruviera dopo le piogge, appunto, di questi giorni. A tutto ciò si somma anche la possibile stangata degli aumenti dell'IRPEF regionale. Lo ha ricostruito il Sole 24 Ore in questi giorni. Un cittadino romano con un reddito di 30.000 euro rischia di pagare, in virtù della somma di IRPEF regionale e comunale, quasi 1.300 euro l'anno. Siamo a tre volte tanto rispetto ai sostanzialmente 500-450 euro di chi abita nei territori del paese dove l'IRPEF regionale e comunale è più bassa. Buona notizia arriva anche dalla regione Sicilia, perché devo dire che il presidente Crocetta, quando l'abbiamo invitato, a me è sembrato anche convincente nel suo sforzo. È vero che vive sotto scorta, dopodiché ha avuto un'eredità pesantissima, gli si è chiesta un'azione, gli abbiamo chiesto un'azione ancora più vigorosa, però per quello che riguarda Palermo, niente regali, la regione Sicilia, e soprattutto tracciabilità delle decisioni, stop ai conflitti di interesse, stretta sugli incarichi e sull'utilizzo dei beni dell'amministrazione. Queste le disposizioni previste dal piano di prevenzione della corruzione, dal programma per la trasparenza, appena varati dal presidente della regione Sicilia Rosario Crocetta. Qualcuno ricorda la polemica che abbiamo fatto ieri con la Corte dei Conti, che diceva fare causa all'agenzia di rating per 117 miliardi di dollari che è difficile mettere nel bilancio, anche perché deve essere liquidabile il patrimonio artistico italiano. È anche difficile se poi viene gestito in questo modo, perché la crisi della regione Sicilia, il blocco della spesa sta sortendo i primi effetti nefasti anche sul patrimonio archeologico, per esempio il teatro antico di Taormina. A raccontare quanto sta accadendo negli ultimi giorni è uno dei dipendenti, dopo la promessa di anonimato vista la circolare della Ragioneria Generale che vieta ai dipendenti regionali di parlare con la stampa se non vogliono incorrere in provvedimenti disciplinari. Dice che dopo la visita al teatro i turisti francesi, uscendoci, gettano il biglietto in faccia. Il teatro di Taormina soffre per la carenza di fondi, le toilette sono impraticabili, non ci sono soldi neppure per comprare la carta igienica. Un teatro definito dai dipendenti in abbandono, dove le pulizie si fanno una volta al giorno per un'ora, e in questo periodo di bassa stagione si contano circa 500 visitatori, ognuno dei quali paga 8 euro per entrare. Dove vanno i soldi? I soldi vanno alla regione e un terzo al comune, ma al teatro di Taormina ritornano le briciole. Secondo il personale della regione, nelle ultime settimane sarebbero arrivati appena 500 euro. È una buona notizia, a mio avviso, è anche quella, e invece quella che arriva da Milano, dove c'è una caccia ai furbetti dell'università. C'è chi dichiara di vivere con nonno e nonna invece che con i genitori. I guadagni familiari calano sensibilmente ed è più facile finire, per esempio, nelle fasce di reddito esentate. E c'è chi dimentica di dichiarare immobili, chi sbaglia nella compilazione del modulo, guarda caso sempre comunque al ribasso. Sono i furbetti dell'ISEU, cioè l'autocertificazione che serve a valutare la situazione economica del nucleo familiare e a calcolare gli importi da versare per le tasse di iscrizione. Facendo un insieme di controlli, però, le università a Milano sono riuscite a recuperare circa 2 milioni di euro, appunto andando a verificare le dichiarazioni, le autodichiarazioni. Al Politecnico, per esempio, hanno recuperato 1.300.000 euro in un anno, incrociando le informazioni del settore contabilità con quelle dell'INPS, su un totale di una contribuzione studentesca pari a 61 milioni di euro. Alla Bicocca, grazie ai controlli negli ultimi due anni, è saltato fuori 1 milione di euro per errori, chiamiamoli così, per carità di patria. Hanno riguardato circa un centinaio di studenti. E poi pensate che nel 2012, quando sono cominciati i controlli alla Bicocca, c'erano circa 5.000 matricole che non pagavano la seconda rata. È un miracolo, ma da quando sono partiti i controlli, o meglio appunto nel 2012, nel giro di un anno il numero di matricole che dichiaravano di dover essere esenti dalla seconda rata era sceso da 5.000 a 500. Cioè in 12 mesi gli studenti provenienti da famiglie poco abbienti sono scesi del 90%. E la cosa bella, a mio avviso, perché bisogna dare anche il messaggio, cioè punire ma anche il premio, è che nella maggior parte dei casi questi soldi vengono reinvestiti per iniziative rivolte agli stessi studenti. Per esempio alla Bicocca hanno deciso di dare premi in denaro a chi ha i voti alti, da 125 a 500 euro l'anno. Al Politecnico queste risorse recuperate dai furbetti serviranno per coprire il 100% delle borse di studio, ma anche in alcuni casi per i fuorisede e per chi decide di fare la tesi all'estero o partire per l'Erasmus. Oh, ogni tanto una buona notizia per respirare. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, il meteo, poi le richieste del mondo delle imprese al governo e il commento di borsa che ha chiuso con un più 2,30%. abbiamo deciso oggi un piano per l'anno 2014, ricerca e innovazione nell'impresa. È un piano finanziato sia da fondi comunitari sia da fondi nazionali, con il quale vogliamo dare un input molto forte, una spinta molto forte a tutto ciò che porta più ricerca nell'attività di impresa, più innovazione nell'attività di impresa. È un piano che incentiva l'assunzione di laureati, che incentiva l'utilizzo di dottori di ricerca. È un piano che dà a chi fa attività di impresa voucher per inserire attività di innovazione e di ricerca nella propria attività di impresa. Si muovono complessivamente per l'anno 2014 250 milioni di euro a favore appunto di tutto ciò che porta e inserisce ricercatori, laureati, che carica di più in termini di ricerca e di innovazione l'attività dell'impresa. Così il Premier Enrico Letta. Sono pochi soldi, meglio piuttosto che niente, meglio piuttosto, dicono a Milano. Allora, adesso invece le richieste o le attese degli industriali. Una cosa, però, non possiamo ogni volta parlare dell'euro. Allora, due risposte a volanti a chi ieri ha visto la gabbia. La prima: io non ho litigato con Borghi, ho solo fatto presente che uno dei teorici dell'uscita dell'Italia dall'euro, di due monete uniche, o di un euro di serie A, un euro di serie B, che tanto nulla cambierebbe sul debito, sui mutui, tutto facile, per chi vede nell'uscita dall'euro poteri taumaturgici e non pensa invece che le riforme vadano fatte comunque in questo paese, che uscire dall'euro sarebbe una grande scusa per la classe politica per non fare più una riforma e che verremo esposti come le valute dei paesi emergenti a qualunque stormia di fronte. Ho solo fatto notare che Borghi, avendo lavorato per anni come dirigente a Merrill Lynch e Deutsche Bank, veniva dalla finanza che tanto tutti adesso criticano, evidentemente ha cambiato idea, no? Perché uno non può lavorare in Merrill Lynch, Deutsche Bank, fare i soldi con la leva finanziaria e poi venire a dire che adesso è contro l'euro. Due, con paragone, non c'è stato nessuno scontro, forse non si è sentito l'audio. Io ho solo ricordato a Gianluca Paragone che la Lega era, ieri ospiti di Radio 24 c'era il sindaco di Verona Tosi, che si è detto contrarissimo a uscire dall'euro. Allora ho fatto solo notare che la Lega stessa, che è il partito più anti-euro che abbiamo in Italia, si sta spaccando al suo interno, visto che poi c'è stata una polemica tra Salvini e Tosi, no? Salvini ha definito la posizione di Tosi come personale. Se poi Paragone ha capito che volessi attaccarlo per il suo passato leghista, ha sbagliato. Io mi riferivo solo alla posizione della Lega. Veniamo adesso a Squinzi. Oggi da Giovanni Minoli, Radio 24, Mix 24, il presidente Confindustria. Vari temi toccati. Sul cuneo fiscale, Squinzi l'ha detto in maniera molto chiara, sulla mancata riduzione delle tasse in busta paga e delle tasse appunto sui lavoratori, si sono incrinati i rapporti con il governo. Il governo ha fatto poco, ma pesa anche la confusione politico-istituzionale. Conosco bene Letta da tanti anni e credo che il suo immobilismo sia anche determinato da una situazione politico-istituzionale piuttosto confusa. Senta, qualcuno dice che è più figlio di Andreotti che di Andreatta, è vero? Ma diciamo che sia l'uno che l'altro, fosse figlio di uno o dell'altro, sarebbe comunque, i risultati sarebbero comunque migliori di quelli che purtroppo si sono visti fino ad ora. Credo che sicuramente per noi la cosa che ci ha colpito negativamente di più è stato il mancato intervento significativo sul cuneo fiscale del lavoro. E poi sull'euro, così torniamo a suscitare polemiche. Anche qui vedo che alcuni mi scrivono sia su Facebook che sugli SMS per quello che ha detto quell'ospite fisso che c'ha la gabbia, come si chiama, Barnard, che le banche europee, le grandi banche falliranno a fine ottobre come conseguenza degli stress test. Evidentemente sa già tutto lui, sa come andranno gli stress test, sa che crolleranno le banche. Io trovo molto pericoloso poi non c'è sempre spazio per dire tutto, ma in quella gabbia. Ma trovo molto pericoloso dire che le banche falliranno, che sono fallite, perché poi sappiamo cosa succede se qualcuno inizia a crederci. Noi, modestamente, che non abbiamo le fonti di Barnard, non abbiamo letto nulla su questo, abbiamo visto solo alcune indicazioni arrivare dalla Banca Centrale Europea su come verranno fatti gli stress test e sugli inviti che arriveranno a ricapitalizzare le banche, anche non quelle, diciamo, che non dovessero superare solo lo scenario peggiore, ma anche lo scenario medio o lo scenario normale. Questo abbiamo visto come notizie, ma evidentemente ci mancano i contatti a Francoforte che ha lui. Sull'effetto euro, uscire dall'euro, io lo ripeto, c'è un carattere psicologico che mi spaventa moltissimo. Questo paese, che è sempre pronto a trovare delle scuse per non fare i compiti come certi studenti, ha bisogno del maestro duro fuori, se no, se torniamo con la liretta, facciamo la fine di alcune valute, rand, lira, così, e le riforme ce le possiamo, già ce ne sono poche, ce le possiamo scordare, tutti torneranno a fare i cavoli loro. Ma soprattutto sull'impatto che un'uscita dall'euro, dell'Italia dall'euro, potrebbe avere sul nostro PIL, c'è uno studio fatto dal Centro Studi Confindustria. Ora, se voi ritenete che gli industriali facciano parte del complotto pluto giudaico massonico di Bilderberg e di ste menate qua a favore dell'euro, non si capisce perché gli industriali dovrebbero tifare pro euro, così, per qualche motivo ideologico. C'è un calcolo fatto dal Centro Studi Confindustria, lo ricordava oggi Giorgio Squinzi, presidente, appunto con Giovanni Minoli, Radio 24. Noi come Confindustria abbiamo fatto una valutazione, un'uscita dall'euro vorrebbe dire un calo del nostro PIL nel giro di 2 anni nell'ordine del 30%. Ok, 30%, Borghi, Bagnai si chiama quell'altro, e tutti con la B, anch'io sono la B, ma non la penso così. Comunque, Borghi, Bagnai, Barnard... Me lo spiegate questo? Mi date il vostro calcolo? Fate il controcalcolo? Quanto ci guadagneremo a uscire dall'euro? È sempre Squinzi che sulla vicenda Electrolux dice: attenzione, il taglio dei salari, lo dice un industriale, non è il rimedio al costo del lavoro. Cioè, non si possono perdere gli insediamenti di Electrolux in Italia, anche perché c'è tutto l'indotto dietro un grande impianto, ma non si può risolvere il problema tagliando i salari. Occorre trovare altre soluzioni più graduali, come già fatto in Germania. Io non credo che si possa risolvere il problema tagliando la metà dei salari. Credo, certo, che si possano trovare delle altre soluzioni più graduali per migliorare il cosiddetto CLUP, cioè il costo del lavoro per unità di prodotto, e come peraltro è stato già fatto in Germania. Non dimentichiamo che in Germania i sindacati, in modo particolare in un'azienda, la Siemens, hanno accettato di lavorare più ore a parità di salario. Credo che bisogna fare un mix di diverse possibilità. Comunque noi non dobbiamo perdere assolutamente gli insediamenti dell'Electrolux in Italia, esatto, in modo particolare quelli in provincia di Pordenone, perché dietro i grandi insediamenti industriali c'è sempre un effetto di traino che spesso va al di là dell'indotto diretto, ma addirittura coinvolge tutta una provincia o tutta una regione. E poi l'elemento più politico, queste erano valutazioni e dichiarazioni di carattere soprattutto economico da parte del Presidente Confindustria. L'elemento più politico, e mi riferisco alla battuta qui soldi, qui cammello, soprattutto quando Squinzi dice: beh, se il prossimo 19 febbraio il Premier Letta venisse in Confindustria e si presentasse senza risposte concrete sulle nostre richieste, non ci resterebbe che appellarci al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sarebbe, diciamo, veramente un'estrema razza. Ha preso l'impegno di tornare da noi il 19 di febbraio, si è offerto di venire a visitarci in consiglio direttivo di Confindustria, ma viene portando delle soluzioni, e alcune già fatte e alcune avviate. Ma, Presidente, cerchiamo di essere chiari, se il 19 viene con la bisaccia vuota, che cosa capita? Sarebbe un grosso problema. A quel punto credo che non ci resterebbe altro che appellarci al Presidente della Repubblica. Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le Camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica, nella sua grande saggezza, che personalmente ho già avuto occasione di sperimentare più volte, prenderà le decisioni giuste. Ah, ma voi avete detto, se non c'è la bisaccia piena, elezioni, quindi insomma una delle due cose il Presidente dovrà farla. Lei si affida. Sì, mi affido. Va bene, senta, anche Prodi però ha detto a Letta, decidi almeno una cosa e prendi un rischio. Sono assolutamente d'accordo. Siamo sempre al 19 con la bisaccia piena, sì. Se no, guai. Senta, Presidente. Della serie, qui i soldi, qui i cammelli. Eh. 17:48 minuti, c'è il traffico, poi la borsa, poi respiriamo anche con la fiera dell'agricoltura, uno dei pochi settori in questo periodo che va bene per il nostro paese, il settore agroalimentare, la più importante fiera d'Italia, una delle più importanti in Europa, che apre i battenti come ogni anno a Verona, e infine Mario Draghi, le prospettive sull'Europa, deflazione, strumenti a disposizione, possibile abbassamento dei tassi di interesse, ogni misura necessaria. +28% oggi Milano, +1,70 Parigi, +1,50 Francoforte, +1,55 Londra, +1% l'America, dopo una reazione fredda, freddina, alle parole di Mario Draghi. Ecco che poi le borse hanno recuperato grazie a Wall Street, bene oggi soprattutto i bancari, non è tanto lo spread a tenere banco quanto l'ipotesi della bad bank. Ne parliamo con Ceo Condi nella Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, era nata sull'ipotesi di Intesa San Paolo. Sì, cioè, poi evidentemente il progetto è un po' più ampio. Allora raccontiamolo, vai. Potrebbe coinvolgere più banche italiane. Oggi per esempio Repubblica sostiene il fatto che potrebbe coinvolgere anche Unicredito e il fondo di private equity KKR, evidentemente visto che si parla di sofferenze che arrivano fino a 300 miliardi di crediti tra virgolette malandati, c'è bisogno di grandi operatori, di grandi dimensioni per poi poter cercare di risolvere un problema come questo. Il problema è noto da anni, che ci sono questi crediti incagliati, e adesso gli istituti stanno provando a risolverlo. Diciamo che è questo tentativo che viene premiato oggi dagli operatori con forti rialzi per le banche, soprattutto a Piazza Affari. E infatti vediamo di questi rialzi, Azimut che fa raccolta in realtà più 6,35%, qui ci sono anche i conti per Azimut però. Sì, cioè, sia il dato della raccolta di gennaio, anche questo record, 701 milioni, sia il numero di Azimut che ha annunciato un utile record ben oltre le attese nel 2013, fino a 160 milioni di euro. Ecco, su questo è interessante notare che i dati sulla raccolta di chi gestisce il risparmio sono in continuo progresso, cioè non per tutti, però questo sembra mostrare, al di là poi delle difficoltà di buona parte dell'Italia, anche una maggiore, non dico fiducia, ma un ritorno parziale, parzialissimo, al risparmio gestito da chi i soldi, per paura, e ci mancherebbe, della situazione e delle prospettive, li aveva tenuti sotto il materasso oppure liquidi. Dicevo, le altre banche, più 5,43% il Monte dei Paschi, più 4,60% la Pop Emilia Romagna, più 4,12 Unipossai, più 3,70 il Banco Popolare come Mediobanca e Ubibanca, più 3% Intesa San Paolo. Spostiamoci invece al lusso, dove ho visto un recupero generale tranne che per Iux, oddio, alla fine ha chiuso in positivo anche lei, più 1,5. Sì, diciamo che oggi dopo le ultime sedute, è tutto a gennaio che il lusso perde un po' terreno dopo la grande corsa degli ultimi 2-3 anni, oggi è ripartito con Ferragamo che appunto fa più 2,9%, Iux era negativa, poi alla fine chiude a più 1,4%, comunque sotto il benchmark, cioè il FTSE MIB, qui c'è un po' di delusione per quelle che sono state le vendite del 2013, in particolare per quelle dell'ultimo trimestre. Ancora Telecom Italia, oggi è la giornata del Consiglio di Amministrazione, più 1,50, ho perso il titolo, stavo più 2,40, stavo citando Tozzi, più 2,43% Telecom Italia, 84 centesimi di euro per azione. E qui Telecom, diciamo oggi il CDA sembra essere stato abbastanza interlocutore, all'ordine del giorno c'era la governance, in particolare le maggioranze qualificate, nel caso passino in CDA delle operazioni comparre con le cosiddette parti correlate, ovvero la vendita di Team Brasil, e in ogni caso il titolo come le principali TLC europee ha guadagnato molto, ha guadagnato più del 2%. Ancora tra chi va oggi ha avuto un po' di difficoltà, Pirelli, però va detto che Pirelli molto era cresciuta nei giorni scorsi, meno 1%. Sì, settimana scorsa c'erano state queste nuove voci su un'offerta della divisione di private equity di Goldman Sachs per l'intera società, il titolo era abbassato a 13 euro che poi era il massimo storico e da lì qualche rialzo. Migliori e peggiori in assoluto, Banca Profilo più 21, Bastoggi continua, più 10,57%, quanto ha guadagnato? 130-140%? Parecchio, il dato, però no, perché quasi raddoppiato il valore. E non si sa nulla su Bastoggi, c'è chi mi scrive, io però posso che riportare il messaggio, attenzione, Bastoggi e speculazione, non lo so, so che ha guadagnato oltre il 100% in queste sedute, prego. Cioè. Ma sì, guarda, il titolo sto guardando adesso, da fine gennaio ha triplicato praticamente, però è anche vero che su titoli del genere bastano, diciamo, pochi ordini d'acquisto per determinare delle performance così vistose. Ok, poi Profilo abbiamo detto, ancora Invest più 9%, Casa Damiani più 7,17%, Cairo Communication più 6%. Fronte opposto invece Ambro Mobiliare meno 4,20%, Gruppo Green Power meno 16,5%. Grazie a Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, il GR di Radio 24 e poi di nuovo in diretta per parlare dell'importanza del mondo dell'agricoltura, ma anche delle prospettive oggi evidenziate da Mario Draghi, che ha lasciato i tassi invariati. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per quello che riguarda al di là della borsa, non ho dato l'Enel, mi fate notare, avete ragione, chiedo venia. Allora, Enel come titolo oggi, allora Enel Green Power più 2,10%, mentre Enel più 4,43% a 3,48 euro. Dicevo, prima di tornare sui temi di politica monetaria dell'Europa, respiriamo, si fa per dire, un secondo con un settore che, lo ripetiamo spesso, è quello in cui Made in Italy sta avendo anche maggiore successo, mi riferisco all'agroalimentare in generale. Oggi ha aperto a Verona la 111esima edizione della Fiera Agricola, infatti proprio forse una delle fiere con la fiera campionaria di Milano più vecchia d'Italia. Si terrà fino al 9 febbraio, oltre 1000 espositori presenti su 45.000 metri quadrati, delegazioni da 24 paesi. Faccio notare che l'agricoltura, nonostante un calo del numero di aziende agricole in Italia, sono scese a 779.000, un 4% in media, sono calate le società di capitali e aumentate quelle. Sono calate le ditte individuali, scusatemi, e aumentate le società di capitali. Tra l'altro, molti segnali di ripresa anche per le giovani imprese agricole, anche per virtù del fatto che la PAC, la politica agricola comunitaria, assegna loro oltre 6 miliardi di euro. Pensate che su 11.400 attività agricole avviate nel 2013, il 17%, siamo quasi a un quinto, è stato avviato da persone che hanno meno di 30 anni. E una volta si diceva braccia rubate all'agricoltura, ma potremmo dire braccia rubate alla finanza, no? Nel senso che diventa sempre più interessante, anche forse complice anche la crisi economica, un ritorno a professioni che sembravano completamente abbandonate. Comunque i dati sull'agroalimentare sono dati di tutto rispetto e anche positivi, perché l'export nei paesi fuori dall'Europa è salito dell'8%, del 5% quello nei paesi europei, per un totale di 35 miliardi di prodotti agroalimentari esportati su un complessivo 250, su complessivi 250 miliardi di euro prodotti. Stiamo parlando, come settore agroalimentare, del 15% del nostro PIL. Giovanni Mantovani, direttore generale della Fiera di Verona, di Verona Fiere, buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, voi tra Fiera dell'Agricoltura e Vinitaly, insomma, giocate un ruolo importantissimo come vetrina per quello che è il nostro settore agroalimentare. Questa mattina è arrivato il sottosegretario per le politiche agricole con delega all'Expo, Maurizio Martina. Quali sono, è vero che anche l'ex ministro De Castro ha detto che l'Italia ha nettamente migliorato i rapporti con l'Unione Europea in virtù anche del lavoro svolto a Bruxelles dai rappresentanti italiani, lui è il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, ex ministro dell'Agricoltura Paolo De Castro. Quali sono le sfide che attendono ancora il settore? Beh, la prima sfida credo che occorre in tempi abbastanza rapidi arrivare all'applicazione in Italia della nuova politica agricola comunitaria, perché come sappiamo si parla di una politica agricola comunitaria per la prima volta, come è stata definita, flessibile. Questo è il termine di moda oggi in questo comparto, nel senso che i singoli stati hanno un ruolo di applicazione e anche di indirizzo dei pezzi di politica agricola nazionale, che non è più questo monolite europeo, ma i governi italiani e le regioni devono individuare per aree omogenee del territorio nazionale le linee guida di sviluppo, e questo è quello che attende il nostro governo. Una sfida importante, perché si tratta di utilizzare bene queste risorse ingentissime, delle quali giustamente una parte significativa è stata destinata allo sviluppo delle attività giovanili in agricoltura. Ecco, e direi che questa è la sfida, diciamo, un po' ad intra, ecco. No, noi segnalavamo appunto il fatto che c'è stato un ritorno, non solo l'anno scorso, anche negli anni precedenti, dei giovani, probabilmente spinti anche dalla crisi occupazionale, per carità, ma è una cosa positiva, a mio avviso. Personalmente penso che un giovane in finanza derivata in meno e un giovane che si dedichi all'agricoltura in più sia una cosa positiva. Poi uno può criticarmi anche per questo, per carità, siamo qui apposta. Poi se uno visita i padiglioni della Fiera di Verona si rende conto che l'agricoltura non è più quell'attività che era l'origine quando è partita 112 anni fa la Fiera Agricola. Allora la Fiera Agricola era mossa, diciamo, dalla forza dell'uomo, dalla forza del cavallo. Oggi parliamo di un'agricoltura che usa tecnologie raffinatissime, tecnologie che fra l'altro sono l'altro versante di questo mondo, che sono, noi siamo il secondo produttore mondiale di tecnologie per l'agricoltura, parlo di macchine, meccanica, quindi una parte importante di questo made in Italy industriale, di manufatturiero vero. Intanto ci chiediamo dove è finito il manifatturiero in questo paese. In questo settore siamo ancora un grande player internazionale, e dall'altra parte siamo un grande player sul prodotto dell'agricoltura, prodotto che sia per quanto riguarda l'ortofrutta, ma per quanto riguarda i lavorati, l'industria agricola, l'industria agroalimentare, certamente dà dei risultati che sono oggi positivissimi e quindi permettono anche l'accesso di giovani a questo settore con professionalità che sono sicuramente professionalità molto molto imprenditoriali. Senta Mantovani, un'ultima domanda, però ci sono vari punti dolenti, ma soprattutto guardavo i dati oggi diffusi proprio durante la Fiera dell'Agricoltura, per cui addio alla vecchia fattoria italiana. Allora, 10 milioni di animali in meno nel 2013, in un solo anno sono scomparsi 10 milioni di mucche, maiali, pecore, capre, galline, oche e conigli. Non fatemi battute su dove potrebbero essere andati, perché la rubrica l'abbiamo già fatta sullo spreco della pubblica amministrazione. Ma questa, come mai la cosiddetta fattoria Italia perde così tanti capi? Adesso non è che io tifi necessariamente per i polli, le galline, i tacchini, ma le cifre fanno impressione: 7 milioni di polli e galline in meno, 750.000 tacchini in meno, 700.000 conigli e mezzo in meno, anche faraone, oche ed anatre non se la passano non se la passano bene e sono venuti a mancare anche gli animali più grandi, 1 milione di pecore, agnelli e capre, 650.000 maiali, 45.000 manze e 25.000 bufali. Ma questo è un dato, direi, che ha a che fare con anche il cambiamento di questa agricoltura. Certamente c'è un processo strutturale che riguarda la zootecnia, la zootecnia italiana ha attraversato una fase di crisi molto molto profonda, non siamo più in molti settori capaci di fare zootecnia in maniera competitiva, e questa è una nota dolente. Come dire, dolente. Però dall'altra parte riusciamo ancora a fare grande qualità sui prodotti e quindi questo è un processo che se si torna a ragionare in positivo sul Made in Italy può essere una fonte di rilancio. Abbiamo aziende nel comparto allevatoriale che sono prime al mondo, senza citare nessun nome, abbiamo una domanda in crescita con una domanda particolare da parte dei paesi extraeuropei anche sul settore dei lavorati da prodotto allevatoriale e quindi questo può essere il traino di una ripresa di questo settore. Certo, registriamo un andamento dell'import da paesi terzi nel comparto zootecnico che sta crescendo e questo processo che va tenuto sotto controllo, assolutamente. Grazie, in bocca al lupo a tutti gli operatori e quindi a tutto il settore dell'agricoltura. Speriamo che sia una fiera agricola di grande ripartenza, sì. Sì, sì, ce l'auguriamo anche noi, come ci auguriamo per tutti i settori produttivi di questo paese e quindi un in bocca al lupo a tutti gli agricoltori e dico in generale a tutto il mondo che ruota attorno all'agricoltura, perché giustamente ci sono gli agronomi, i zootecnici, gli agricoltori veri e propri, i produttori di macchinari, è un mondo molto variegato. Grazie al direttore generale della fiera di Verona Giovanni Mantovani. Il traffico e poi dall'agricoltura a Mario Draghi, il volo è veramente pindarico, speriamo di non farci male, vai. Based on a regular economic and monetary analysis. Sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie abbiamo deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. Le informazioni disponibili confermano che la ripresa moderata dell'area euro sta procedendo come ci aspettavamo. Le attese riguardo l'inflazione nell'area euro nel medio-lungo termine continuano ad essere ancorate e in linea con l'obiettivo di un'inflazione al di sotto ma vicina al 2%. Come affermato in altre occasioni, stiamo assistendo a un prolungato periodo di bassa inflazione che sarà seguito da un rialzo graduale verso un tasso al di sotto ma vicino al 2%. I dati più recenti confortano la nostra decisione di mantenere una linea accomodante per tutto il tempo che sarà necessario. A nome del direttorio voglio riaffermare con forza la nostra indicazione di tenere i tassi di interesse ai livelli attuali o più bassi a lungo. Per ciò che riguarda la recente volatilità dei mercati e il potenziale impatto sulle linee della nostra politica, monitoriamo da vicino gli sviluppi e siamo pronti a considerare tutti gli strumenti a disposizione e ad adottare altre azioni decisive se sarà necessario. Così Mario Draghi oggi. C'è qualcosa che non ho capito, però lo ammetto in maniera molto chiara, nel ragionamento di Mario Draghi, perché nel lasciare i tassi invariati, nel ricordare che la Banca Centrale Europea farà gli interventi decisivi ulteriormente se necessari, quindi terrà i tassi bassi ai livelli attuali o ancora più bassi, dice una cosa Draghi, dice attenzione, non c'è nessuna deflazione nell'area euro. Se ci chiediamo se c'è una deflazione, quindi prezzi in calo nell'area euro, che ripeto è un pericolo perché per tutti i debitori prezzi in calo significano valori reali più bassi nell'arco di un anno, cioè l'effetto opposto dell'inflazione, oltre che rimandare le spese perché ti attendi che i prezzi calino. Ma dicevo, Draghi da un lato dice che non c'è nessuna deflazione nell'area euro, però poi dice la bassa inflazione è un rischio, siamo pronti ad agire. Alessandro Merri, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Sì, buonasera. Me la tieni in mezzo? Cioè, vorrei capire che come si fa a dire che la deflazione, non c'è nessuna deflazione nell'euro, però la bassa inflazione è un rischio, non capisco. Da quel che ho capito io, naturalmente non voglio mettere in bocca Draghi. Vabbè, non posso chiamare Draghi. Mal interpretate, però mi sembra di capire che Draghi e la BCE considerano deflazione un rischio molto grave, pur dicendo che nell'area dell'euro non c'è nessuna deflazione, però che è sufficiente una inflazione molto bassa per un periodo lungo come quella che pare all'orizzonte nell'area euro, anche se la BCE lo nega. Questa di per sé stessa è un rischio, perché l'inflazione molto bassa può bastare un qualsiasi incidente anche internazionale. Oggi si è parlato spesso in conferenza stampa della crisi dei paesi emergenti, può essere sufficiente poi a far cadere la bilancia al di là di quel livello minimo di inflazione, in una situazione di deflazione vera e propria. Come dico, Draghi non vede al momento questa ipotesi, tanto è vero che la BCE non ha toccato i tassi, non solo, ma nella sua dichiarazione introduttiva Draghi ha fatto precedere alle considerazioni sull'inflazione, che di solito vengono per prime, quelle sulla ripresa, che comunque sta dando qualche segnale, secondo lui, soprattutto nei sondaggi di maggior fiducia delle imprese e dei consumatori. Sì, hai ragione. Sulla ripresa lui vede un rischio principale, ed è quello derivante dalle turbolenze sui mercati emergenti. Non posso tornare sull'euro ogni volta, però qualcuno vada a vedersi cosa è successo alla lira turca, al rand sudafricano, alle valute di paesi che crescono ben più di noi. E appunto sono dinamici, ma hanno valute deboli, per vedere poi cosa vorrebbe dire avere la riretta. Sentiamo Draghi. Developments in global money and financial market conditions. Come stiamo osservando da alcuni mesi, si tratta di una ripresa economica modesta, ma che mostra nuovi segnali incoraggianti. Come ho detto tante volte, dobbiamo essere estremamente cauti nel valutare la ripresa, perché è ancora fragile e irregolare. I rischi che circondano lo scenario economico della zona euro continuano ad essere al ribasso. Gli sviluppi delle condizioni dei mercati finanziari e le conseguenti incertezze, soprattutto nelle economie dei paesi emergenti, potrebbero pesare negativamente sulla ripresa dell'eurozona. Altri rischi al ribasso includono una domanda interna e un andamento dell'export che potrebbero essere inferiori alle attese, a cui si aggiunge un lento, se non insufficiente, processo di riforme strutturali nei paesi dell'area euro. And slow or insufficient implementation of structural reforms in the euro area countries. E quindi qualche cautela Draghi l'ha avanzata, poi ha aggiunto che gli effetti della politica monetaria dei bassi tassi della Banca Centrale Europea non si riflettono a quelli applicati in Italia e in Francia. Alessandro Melli, ti vorrei anche su questo, perché poi Draghi ha aggiunto conservare l'opacità dei bilanci bancari non aiuterebbe e continuerebbe ad avere un impatto negativo sul credito a breve. È stato tradotto da un'agenzia italiana sulla questione tassi, ma non è assolutamente così. Draghi ha parlato dell'IVA proprio per dire che ci sono degli elementi negativi, ha detto: guardate la situazione in Italia e in Francia, è stata aumentata l'IVA, ma questo non si è riflesso sui prezzi, vuol dire che il potere di aumentare i prezzi da parte delle imprese è molto debole. Guardate le vendite di Natale che sono andate male. E questo ci dimostra che la domanda interna è insufficiente, eccetera. Quindi mi permetto di fare questa correzione, ma è stato riportato male il pensiero di Draghi, parlava dell'IVA. Ma fai bene, perché non si capiva, cioè anch'io quando ho visto l'agenzia, la politica della Banca Centrale Europea non si riflette sui tassi in Italia, sono trovato un po' ermetica. Adesso capiamo tutto, cioè nonostante... Allora, posso forzare anche la tua analisi? La situazione dei consumi è messa così male in Italia e in altri paesi che poi, nonostante un aumento poi dei prezzi dovuto all'IVA, questo non si riflette poi in un aumento complessivo, quindi cioè è nei prezzi al consumo, perché appunto i consumi sono così, sono così bassi, è proprio così, che continuano, cioè, a calare i prezzi anche se ha aumentato l'IVA. Certo. qualcuno ha assorbito questo imprezzo dell'IVA ma non l'ha ripassato con i consumatori, perché essendo i consumi molto deboli, ripassargli l'aumento dell'IVA avrebbe voluto dire probabilmente deprimere ulteriormente i consumi. Però qualcuno ha incassato una cosa. Qualcuno ha perso, diciamo, l'aumento dell'IVA, non l'ha trasferito sui prezzi, anche perché comunque i prezzi continuano, come vediamo dal dato Istat, non dico a calare, ma a restare praticamente fermi. Vorrei concludere non con Draghi, ma con Squinzi, perché c'è un passaggio dell'intervento del presidente di Confindustria questa mattina, da Giovanni Minoli, Radio 24, sulla Germania. Io continuo a sostenere che un conto è criticare questa Europa a trazione tedesca, è un conto è criticare l'euro, non so più come dirlo, non è colpa del termometro se hai la febbre. Allora Squinzi sulla Germania ha detto: ci ha fregato, però bisogna ammettere che sta brava a fare a suo tempo le riforme. E ci hanno fregato, sì, perché noi abbiamo pagato, noi, e dico noi italiani, ma tutti gli europei hanno pagato l'abbattimento del muro, l'entrata dell'unificazione tra Germania Ovest e Germania Est, e loro sono stati più bravi di noi, perché tra l'altro sono stati anche capaci di realizzare quelle riforme che noi non riusciamo a realizzare. Ed è veramente tutto, grazie Alessandro Melli in collegamento con noi da Francoforte. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.